La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net. I doni del vento. Una fiaba ispirata da un racconto popolare norvegese, scritta e messa in voce da Gaetano Marino. Tra le valli del nord dell'isola di Hyknos c'era una piccola casa abitata da una donna debole di nome Adelaide insieme al suo figliuolo Eugenio. Un giorno Eugenio andò alla dispensa delle provviste per prendere la farina necessaria ad impastare il pane. Dopo averla presa, la mise in un cesto insieme a un po' di lievito e tornò a casa. Improvvisamente una folata di vento maestrale si portò via la farina dal cesto. Eugenio, amareggiato, riandò nella dispensa a prendere un altro po' di farina, ma appena riaprì la porta per uscire, il vento maestrale tornò e si portò via anche quella farina. Andò così anche la volta successiva, finché nella dispensa non ci stette più farina. Allora Eugenio si infuriò e pensò che non era giusto che il vento maestrale si comportasse come un ladro. Decise così di andare a trovarlo per chiedere la restituzione della farina. Dopo un lungo viaggio arrivò a casa del vento maestrale. «Buongiorno, signor maestrale», disse Eugenio. «Buongiorno a te, ragazzo», rispose gentilmente il maestrale. «Gentile signor maestrale, vengo dalle valli del nord. Il mio nome è Eugenio e sono il figlio di donna Adelaide, che è molto, molto malata». «Oh, quanto mi dispiace! Dimmi, caro ragazzo, cosa posso fare per te?» «Gentile signor maestrale, volevo chiederti, per favore, se potessi restituirmi la farina che mi hai portato via. Già ne avevamo poca, ma ti sei divertito a portarla via tutta e adesso non ci resterà che morire di fame». «Caro ragazzo Eugenio, mi dispiace tanto per te e per la povera mammina», disse il vento maestrale, «ma io sono e faccio il vento e tra i miei compiti c'è pure quello di portar via le cose alla gente. Comunque, io di farina non ne ho, ma per farmi perdonare voglio farti un dono». Il vento maestrale prese dalla madera un sacco da dove tirò fuori una tovaglia. «Ecco qua, ragazzo caro, ti faccio dono di questa tovaglia magica che può procurarti tutto il cibo di cui avrai bisogno, per sempre. Basterà che tu la metta sul tavolo, così ben piegata, e dica: tovaglia o tovaglia, stenditi e apparecchia, servimi e abbonda di quel che vorrò. E vedrai di quale magia la tovaglia sarà capace». Eugenio ringraziò il maestrale, prese il sacco e si avviò felice verso casa. La strada del ritorno era assai lunga. Scese la sera, poi venne la notte e il ragazzo era molto stanco. Durante il cammino vide un'insegna illuminata da tante lanterne con sopra scritto «La locanda di Yolanda». Eugenio decise di fermarsi per cenare e riposare. Purtroppo però Era tardi, tutti gli avventori avevano già cenato e nelle cucine non era rimasto più niente. Eugenio disse allo stessa Yolanda di non preoccuparsi, perché ci avrebbe pensato lui. Levò dal sacco la tovaglia ripiegata, la posò su un tavolo e pronunciò le parole magiche. «Tovaglia o tovaglia, stenditi e apparecchia, servimi e abbonda di quel che vorrò». Subito la tovaglia magica si aprì ed Eugenio ordinò cibo in abbondanza. In un momento tutto quello che Eugenio aveva desiderato apparve sulla tovaglia. Figuriamoci lo stupore di tutti, ma soprattutto dello stessa Yolanda. Con quella tovaglia magica non ci sarebbe stato più bisogno di far fatica per comprare e cucinare il cibo. Perciò quel prodigio misterioso doveva essere suo. A notte fonda, mentre tutti dormivano, lo stessa Yolanda si introdusse furtiva nella camera dove dormiva Eugenio, allungò la mano verso il sacco, afferrò la tovaglia magica e la sostituì con un'altra uguale. Al risveglio del giorno dopo, il ragazzo prese la sacca, controllò che tutto fosse a posto e si avviò verso casa. Quando arrivò, gridò da fuori: madre mia, eccomi, sono tornato!» La madre, quando vide il proprio figliuolo, quasi non lo riconosceva. «Eugenio, sei tu, figliolo caro, ma dove sei stato per tutto questo tempo?» «Oh, madre mia, sono stato dal vento maestrale e lui mi ha regalato una tovaglia magica che porto dentro il sacco. Una tovaglia con grandi poteri magici. Pensa che potremo avere da mangiare tutto quello che vorremo. Eugenio, figliolo adorabile, ma ancora credi alle favole? Oh, devi essere molto stanco, ed è bene che ora tu riposi. Vado a prepararti una buona tisana», rispose la madre, che era sempre stata prudente. Allora Eugenio si affrettò a levare dal sacco la tovaglia, la pose sulla tavola della cucina e pronunciò le parole del prodigio. «Tovaglia o tovaglia, stenditi e apparecchia, servimi e abbonda di quel che vorrò». E che accadde? Niente. La tovaglia restò ripiegata sul tavolo e non apparve nemmeno un tozzo di pane secco. «Ma com'è possibile? Madre mia, ti giuro, io l'ho visto con i miei occhi di cosa fosse capace questa tovaglia». Madre Adelaide scuoteva la testa, ma Eugenio non voleva darsi per vinto e ci riprovò. «Tovaglia o tovaglia, stenditi e apparecchia, servimi e abbonda di quel che vorrò». Nulla. La tovaglia restò com'era. Eugenio pensò di tornare a casa del vento maestrale e partì. Quando Eugenio arrivò a casa del vento maestrale, salutò e disse: «Carissimo e gentile vento maestrale, vengo ancora a protestare per la farina che mi hai tolto, perché la tovaglia che mi hai dato non mi è servita a niente». «Eugenio caro», rispose il maestrale, «son cose che accadono quando si è piuttosto distratti, ma eccoti una bella capra pezzata. Basterà che tu dica le parole magiche: fai la cacca, o capra pezzata, porta fuori gnocchi d'oro all'impazzata, e vedrai quanto oro ti darà». Eugenio ringraziò ancora il vento maestrale, prese la capra pezzata e si avviò. Avendo come sempre tanta strada da fare, si fermò presso la locanda di Yolanda. Prima di ordinare qualcosa, provò la capra pezzata per vedere se il vento maestrale avesse detto il vero e pronunciò le parole magiche. «Fai la cacca, o capra pezzata, porta fuori gnocchi d'oro all'impazzata!» Il vento maestrale aveva proprio detto il vero. Centinaia e centinaia di gnocchi d'oro furono evacuati dalla capra pezzata. Ovviamente la furba ostessa Iolanda non poté farsi sfuggire l'occasione. Con quella cacca gnocchi dorati di capra pezzata avrebbe chiuso la locanda e si sarebbe data la pazza gioia. Cosicché, appena Eugenio s'addormentò, lo stessa prese dalla stalla una capra pezzata simile a quella magica, la mise al suo posto e quella se la portò via. La mattina dopo, Eugenio riprese il viaggio e quando arrivò a casa disse: «Madre mia, il vento maestrale è davvero generoso. Mi ha dato questa capra pezzata che fa la cacca di gnocchi d'oro!» Mentre la mamma scuoteva la testa, come sempre, Eugenio pronunciò le parole magiche: «Fai la cacca, o capra pezzata, porta fuori i gnocchi d'oro all'impazzata!» La capra pezzata fece subito, ma quel che fece non furono proprio gnocchi dorati, eh no? Quelli erano tantissimi e inconfondibili gnocchi di colore scuro nero e assai puzzosi. Madre Adelaide sollevò gli occhi al cielo e disse: «Eugenio, figlio mio, favole sono, ma lo vedi anche tu, ma quando ti deciderai a crescere?» Eugenio non si arrese e si rimise in cammino per andare dal maestrale. Quando lo trovò, gli disse: signor maestrale, mi duole dirlo, ma la capra pezzata non è buona a nulla!» Il maestrale rispose: «E va bene, Eugenio. Ora non ho altro da darti che quel vecchio bastone di ginepro che sta lì, nell'angolo, lo vedi? Ma stai attento, quello è un bastone magico, assai pericoloso, perché se tu gli ordinassi: bastone mio, ora forte, tu devi bastonare, quello picchierà e spaccherà tutto fino a quando non gli dirai: bastone mio, per la peppa della comare, ora smetti di bastonare. Ma attento, potrai solo tu ordinare quel che il bastone magico dovrà fare. E ora vai e stai in guardia con lo stessa Iolanda.» Eugenio ascoltò con molta attenzione e capì quel che c'era da capire. Si mise in viaggio per tornare a casa. La strada era sempre la stessa e il ragazzo si fermò anche quella sera presso la locanda di Iolanda. Cenò con abbondanza, tenendo ben stretto a sé il bastone magico. Lo stessa, mentre spiava il giovane Eugenio, pensò che anche quel bastone dovesse avere la sua magia. Terminata la cena, Eugenio si alzò per andare a dormire. Lo stessa Iolanda prontamente invitò il giovane a lasciare il suo bastone di ginepro accanto al camino ed evitare la fatica di portarlo di sopra in camera. «No, grazie, gentile ostessa. Questo è un bastone molto speciale e pieno di prodigi. Devo tenerlo con me?» rispose Eugenio mentre si avviava in camera. Nella notte piena, lo stessa cercò un bastone di ginepro uguale a quello di Eugenio. Salì in camera dove il giovane dormiva, aprì piano la porta ed entrò. Nel semibuio vide appoggiato sul letto il bastone di ginepro. Si avvicinò e appena provò ad afferrarlo, Eugenio, che fingeva di dormire, ordinò: «Bastone mio, ora forte, tu devi picchiare!» Il bastone magico s'avventò sulla povera stessa Iolanda e cominciò a pestarla Forte, forte! Madre mia! Ragazzo, ti prego! Ordina al bastone di fermarsi, altrimenti mi ammazza! Implorò lo stessa Yolanda. Lo farò, rispose Eugenio, ma a patto che tu mi restituisca quel che mi hai rubato. Va bene, va bene! Ah, ragazzo, ti prometto che riavrai la tovaglia magica e la capra pezzata, caccagnocchi dorati! Ed Eugenio ordinò. Bastone mio, per la peppa della comare, ora smetti di bastonare. Dopo che il bastone finì di bastonare, lo stessa restituì al giovane Eugenio la tovaglia magica e la capra pezzata magica. Il giovane riprese le sue cose e se ne tornò a casa, dove finalmente poté mostrare alla madre Adelaide i loro poteri. Da allora madre e figlio vissero per sempre ricchi, felici e contenti. Avete ascoltato Parole di Storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net